4E. Ascolta e rispondi. Potrei rispondere al professore? Certamente, gli risponda. Dovrei credere a quel signore? Certamente, gli creda. Dovrei obbedire al direttore? Certamente, gli obbedisca. Chieda un'informazione a quella signora. Gliela chieda in italiano. Descriva la situazione alla signorina. Gliela descriva nei dettagli. Rivolga alla giornalista una domanda. Gliela rivolga con calma.